Radio 24. Libera la voglia di fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Sette e 32 minuti, buongiorno a tutti cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati con Si può fare, stiamo insieme fino alle 10, cominciamo tra poco con una veloce rassegna stampa, un'occhiata alle prime pagine dei giornali di oggi che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8, 349-238-6666 anche su WhatsApp, se volete commentare quello che sentite, andiamo a iniziare, vai! E allora andiamo subito con i titoli principali dei principali giornali che dedicano quasi tutti una foto alla stretta di mano tra Vladimir Putin e Donald Trump, l'atteso faccia a faccia dopo tante discussioni, dopo tante ipotesi sulle alleanze o sugli scontri presunti. Inizialmente c'è stata una sorta di luna di miele tra Trump e Putin, una inedita, strana luna di miele, tanto che poi si era rovesciata nel suo opposto quando si è cominciato a parlare di hackeraggio, di Russia Gate, cioè le potenziali possibili influenze della Russia nella campagna elettorale americana. A quel punto Trump ha preso le distanze da Putin, ma adesso con questo accordo sulla Siria al G20 insomma sembra che le cose stiano cambiando. Quindi la foto la stessa con la stretta di mano, i due che si guardano negli occhi. Poi vabbè, insomma, altre notizie, naturalmente l'intervista al Papa di Eugenio Scalfari su Repubblica, se volete, ma anche la questione di Renzi, che ieri ha pubblicato un post su uno dei suoi social nel quale aiutiamoli a casa loro, era la fine, lo slogan, che è un pezzo di un brano del suo libro che uscirà prossimamente, e però la somiglianza con lo slogan della Lega è saltato subito agli occhi. A proposito del tema di immigrazione, diceva Renzi, non abbiamo il dovere di accoglierli, ma abbiamo il dovere morale di aiutarli, aiutiamoli a casa loro, apriti cielo, perché insomma questo cambio di posizione, questo volta gabbana, questo volta faccia, chiamatelo come volete. Tanto che poi il post è stato stato prima cancellato, poi Renzi ha precisato, eccetera, eccetera. Ma cominciamo con i titoli. Il Corriere scrive: Trump, Putin, patto sulla Siria, appunto. Deciso per domani il primo cessate il fuoco. E infatti l'oggetto della stretta di mano è proprio questo, un incontro che tra l'altro è durato molto più del previsto. Anche su Repubblica, sulla stampa, Trump-Putin, fragile intesa sulla Siria, qui si sottolinea la fragilità, ma come sempre di queste intese, intanto l'intesa che vale per una parte della Siria, questo cessate il fuoco, che non ha però fortunatamente diciamo una durata, una scadenza temporale, quindi un cessate il fuoco incondizionato, però solo in una parte della Siria, poi si pensa di poterlo estendere anche altrove. Primo faccia a faccia, scrive ancora la stampa, al G20 di Amburgo la First Lady americana Melania bloccata a causa dei violenti scontri, perché poi lo sapete, l'altra notizia di questi giorni è stato proprio il grandi cortei, gli scontri con la polizia ad Amburgo, ci sono stati un sacco di arresti e di feriti anche tra gli agenti di polizia. Insomma, questo è il titolo, Putin-Trump, mano tesa sulla Siria, ancora i giornali, il Messaggero, Trump e Putin, torna il feeling, c'è l'intesa sulla tregua della Siria. Allora, vediamo un po' che intesa c'è, di che si tratta, quanto è fragile, quanto non è fragile. Vediamo sul Corriere. Donald Trump e Vladimir Putin hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco nella regione sud-occidentale della Siria, che dovrebbe entrare in vigore da domani a mezzogiorno, ora locale. La notizia è stata confermata ieri sera dal segretario di Stato americano Rex Tillerson, che e anche dal suo omologo russo Sergei Lavrov, il quale ha definito costruttiva l'atmosfera dei colloqui tra Trump e Putin. Come sempre si usano queste espressioni diplomatiche per poi lasciare intendere quello che può essere accaduto all'interno dell'incontro, ma insomma, al di là di questo, il nuovo cessate il fuoco, scrive il Corriere, non ha durata ed è parte di una più ampia trattativa tra Mosca e Washington che proseguirà nelle prossime settimane, tesa a ridurre il livello di violenza. Secondo il segretario di Stato americano, ministro degli esteri, in sostanza americano, Tillerson, Trump e Putin sperano di estendere presto la tregua al resto del paese. E poi, insomma, quello che si siano detti per ora non lo possiamo sapere con certezza, fino a che non vedremo dei risultati operativi, ma sicuramente non avranno parlato solo di Siria. L'incontro inizialmente programmato per poco più di mezz'ora, il vertice nel vertice, è stato così definito ad Amburgo, tra Putin e Trump, è durato in realtà 2 ore e 16 minuti, tanto che Putin, che aveva un altro incontro subito dopo con il premier giapponese, il premier giapponese Shinzo Abe, non si è praticamente presentato, cioè è arrivato con 1 ora e mezza di ritardo. Putin si è scusato per il ritardo con il premier giapponese anche a nome di Trump, spiegando che la conversazione con il leader americano era stata molto lunga e se ne erano accorti tutti. Quindi evidentemente, insomma, di lì l'importanza, il contenuto, la sostanza di questo vertice. Per andare a leggere tra le righe possiamo affidarci per esempio al commento di Michael Walzer, un filosofo politico americano di Princeton, che dice, un po' scettico: non penso che ci sia un accordo sulla Siria che stia per arrivare. È ormai acclarato che la Siria è nella sfera di influenza russa, cioè per questo analista, diciamo, l'accordo, la sostanza dell'accordo è Trump che lascia in qualche modo la Siria nelle mani della Russia. Nessun governo americano contesterebbe oggi questa idea, prosegue Walzer. Vorremmo che ci fossero zone sicure per i nostri amici, per esempio un pezzo di Siria nel nord gestito dai curdi sotto la protezione americana, ma dubito che i russi siano d'accordo e i turchi di sicuro non lo sono. Per diciamo, completare questa parte possiamo divertirci a ripercorrere le dichiarazioni di Trump su Putin, di Putin su Trump degli ultimi mesi, dell'ultimo anno e mezzo, più o meno dall'elezione, da prima dell'elezione di Trump, per vedere come sono anche cambiate le prospettive. Il 7 maggio del 2016 Trump diceva: vogliono che io rinneghi Putin. Putin ha detto che Trump è un genio. E qua, amore tra i due, campagna elettorale. Nessuno, scriveva Putin, tranne noi, credeva che Trump avrebbe vinto. Come dire, siamo stati i primi a credere in lui. Poi ancora, 11 gennaio 2017, se a Putin piace Trump, scriveva Trump, io considero questo un asset, non un ostacolo. Cioè il rovesciamento della prospettiva, no? Putin, il presidente russo, con dei lati oscuri sui diritti umani in Russia, con le sanzioni, che subisce le sanzioni sull'Ucraina da parte dell'Europa, per Trump è un asset e non un ostacolo. Poi cambio di rotta completamente. Pochi mesi più tardi, dopo l'elezione di Trump, 11 aprile 2017, dopo, dicevamo, Russia Gate, eccetera, eccetera, Putin e Trump cominciano a prendere le distanze tra di loro. Secondo qualcuno, un gioco delle parti, ma Putin scriveva: le relazioni Stati Uniti-Russia si sono deteriorate con Trump presidente. Poi Trump rincarava: Putin sta sostenendo una persona, Assad, che è davvero malvagia, e via andare con questo genere di dichiarazioni. Putin che scrive: Russia Gate è semplicemente una forma di isteria. Questo accadeva un mese e mezzo fa. Adesso il riavvicinamento, il disgelo, la stretta di mano, questo accordo sulla Siria che staremo a vedere insomma, fin dove si spingerà. E, invece sul tema caro all'Italia, che riguarda i migranti e che in qualche modo dopo il vertice di Tallinn sta comunque su tutti, cioè in primo piano tra i dossier italiani, andiamo a vedere i titoli intanto. cosa scrive Repubblica, l'intervista a, dicevamo, al Papa Francesco, che dice il Papa, intervistato da Eugenio Scalfari: il mio grido al G20 no ad alleanze contro i migranti. E poi invece il Corriere: migranti, le navi ONG nei porti del nord Italia. Quindi si comincia ad affiorare un'altra ipotesi, un'altra possibilità, che è quella dell'Italia, diciamo, ricevuto il no dei paesi europei ad aprire altri porti europei alle navi delle ONG che caricano i migranti che partono coi barconi alle coste della Libia. Allora l'Italia sta pensando di chiudere i porti della Sicilia, di allontanare un po' l'approdo, anche per scoraggiare in qualche modo i trafficanti, forse, e anche per cambiare la logica con cui lavorano le ONG. Questo lo leggeremo tra poco, è un retroscena di Fiorella Sarzanini, ma intanto il secolo XIX ci ricorda un'altra notizia: Ventimiglia, frontiera blindata. Riaperto dopo 20 anni il presidio a Ponte San Luigi, Minniti incontra il sindaco, ma appunto la notizia è: la frontiera di Ventimiglia torna indietro di 20 anni. Gli uffici di frontiera al Valico di San Luigi, chiusi grazie alla ratifica del trattato di Schengen, sono stati riaperti e verranno utilizzati per accogliere i migranti respinti dalla Francia. E poi c'è la polemica per le frasi di Renzi, ci arriviamo tra un attimo, ma leggiamo prima questo retroscena che riguarda quello che scrive Fiorella Sarzanini sul Corriere, e cioè quello che starebbe studiando il governo per arginare, controllare, per gestire il flusso di migranti. In attesa del codice di comportamento delle ONG proposto dal ministro Minniti, che ha ottenuto il via libera dei partner europei a Tallinn, l'ipotesi è quella di escludere dalla rosa dei porti disponibili in Italia quelli siciliani. Vuol dire che le navi delle organizzazioni non governative che attualmente approdano nello scalo più vicino alla Libia, come prevede il diritto del mare, saranno invece dirottati nei porti del nord, ad esempio Livorno, Genova, Trieste, per motivi di ordine pubblico. Un modo per scoraggiare la modalità finora utilizzata di prendere a bordo anche i migranti che si trovano su imbarcazioni che non sono in difficoltà e portarli più velocemente in Italia. E questo è un punto. Poi Fiorella Sarzanini prosegue dicendo che quello che sono le sue informazioni: il 13 luglio è prevista una riunione tra i vertici della Guardia Costiera, responsabili delle ONG, coordinata dal ministro Minniti, ministro dell'Interno. Nel corso dell'incontro saranno illustrate le linee guida del provvedimento e soprattutto le sanzioni per chi non rispetta le regole, in particolare chi non avrà i requisiti, le navi delle ONG in particolare, ma soprattutto non si atterrà a quanto stabilito dal Ministero dell'Interno, dal Viminale, subirà il divieto di approdo, cioè non potrà più approdare nei porti. Poi si tratterà di vedere anche se questo divieto, in base a questo codice delle ONG, che dovrebbe avere il sostegno europeo, vedremo se avrà un sostegno europeo largo o se sarà un'iniziativa più italiana, e se poi sarà facile anche metterlo in pratica, perché poi insomma, ti voglio vedere anche a impedire a una nave, magari che ti segnala che ha dei problemi sanitari a bordo, ad approdare in uno dei porti italiani, come è successo fino ad ora. Ma staremo a vedere. 349-238-6666, traffico, torniamo tra un attimo. E allora eccoci qua, 7:46 minuti, di nuovo buongiorno, ben ritrovati da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. 349-238-6666 se volete commentare quello che state sentendo, una veloce rassegna stampa che ci porta fino al giornale radio delle 8. Allora, adesso è il momento di occuparci della questione delle frasi di Renzi, che ieri soprattutto sui social hanno scatenato ironie, è diventato virale. Renzi scrive Repubblica: un tetto agli ingressi, aiutarli a casa loro, ma è polemica. Il Corriere non riporta in prima pagina questa notizia, la notizia ve l'ho spiegata, ma adesso vediamo consiste in un'anticipazione del libro di Renzi, lo ricordo per chi fosse stato distratto nelle ultime ore, nel quale lui dice sostanzialmente non abbiamo il dovere morale di accogliere tutti i migranti, ma il dovere morale di aiutarli, aiutiamoli a casa loro, cosa che quest'ultimo passaggio soprattutto assomigliava molto, era identico ad uno slogan della Lega, quindi a sottolineare subito una voltafaccia di Renzi, ma che poi corrisponde anche a un riorientamento della politica, forse del PD sui migranti, sicuramente in parte del ministro dell'interno Minniti, che sta cercando di mostrare una faccia più dura. Però vediamo i giornali. Libero: non possiamo accogliere tutti i profughi, Renzi spiega, e poi ancora il giornale, la svolta di Renzi, numero chiuso, stretta sugli immigrati, il leader del PD sta con il centrodestra e propone aiuti a casa loro. E questo è il giornale. Poi vediamo ancora il Fatto Quotidiano: aiutiamo i migranti a casa loro, Renzi posseduto da Salvini, cioè proprio nel senso siamo quasi a Anakin Skywalker che diventa Darth Vader, cioè il lato oscuro della forza, quasi posseduto da Salvini, scrive il Fatto Quotidiano. E invece per il Manifesto, come sempre un titolo non male come gioco di parole, c'è la foto di Renzi col microfono in mano e il titolo è Sul Carroccio, cioè Renzi che sale sul carro non tanto dei vincitori quanto diciamo forse dei più popolari dal punto di vista del consenso elettorale. In questo caso il carro è il Carroccio della Lega, perché che è evidente. Non abbiamo il dovere morale, scrive il Manifesto, di accoglierli tutti, aiutiamoli a casa loro, Renzi insegue Salvini. La frase scritta sul suo libro in uscita rilanciata dai canali social del partito segna la svolta a destra del segretario del PD anche sull'immigrazione, pioggia di critiche in rete, siete come la Lega. E questi sono i titoli che poi io dico, se aiutiamoli a casa loro è occupiamoci dello sviluppo in Africa, della garanzia dei diritti per tutti, facciamo qualcosa perché ci siano l'acqua, le medicine, qualcosa contro la desertificazione dell'Africa, eccetera. Questo credo che sia una cosa ineccepibile e credo dal punto di vista della sinistra sia anche molto di sinistra. Il problema è che se lo dici come slogan, magari alla vigilia di un appuntamento elettorale, allora diventa una forse anche una carognata, ed è questo il sospetto che hanno un po' tutti nei confronti, mi verrebbe a dire, sia di Salvini sia di Renzi, indiscriminatamente per tutti i politici, perché se vai a guardare oggettivamente i fondi destinati alla cooperazione con il terzo mondo da parte di tutti i governi negli ultimi anni, è stato sottolineato più volte, insomma c'è sempre il segno meno, quindi nessuno si sta realmente occupando di aiutarli a casa loro, anzi stiamo destinando meno risorse a questi aiuti. E quindi poi quando mi venite a dire aiutiamoli a casa loro fate ridere, questa è un po' la sostanza. Comunque Repubblica scrive così: migranti numero chiuso, aiutiamoli a casa loro, sconto sulle frasi di Renzi. Si tratta di una frase contenuta nel libro Avanti, in uscita mercoledì, nel testo originale approfondita citando sociologi ed esperti, ma veicolata nella fretta dei social network diventa pericolosamente uguale allo slogan di Matteo Salvini. E allora apriti cielo, una serie di commenti sul web, di prese in giro eccetera eccetera, la frase subito cancellata, ma invano, perché la gaffe diventa virale, perché come sapete basta fare uno screenshot, tac, e poi si ripubblica e rimane lì a futura memoria. Sulla questione diciamo che abbiamo già trattato prima, ancora velocemente a ricordare diciamo quello che è l'intenzione del governo, del ministro Minniti in particolare, sulle prossime mosse da attuare. Repubblica ci ricorda come nasce la missione Triton: l'errore è stato lasciare Mare Nostrum per paura degli attacchi, così nacque Triton. Questo scrive Letta, ma Triton, come volete definirlo, nacque nel novembre del 2014, governo Renzi, con Alfano ministro dell'interno. L'Italia fu tra i primi stati ad abbracciare la missione di sicurezza di Frontex, accettandone i criteri operativi. Era un modo per sostituire Mare Nostrum che, tra marina e aeronautica, questo è il punto, ci costava 10 milioni di euro al mese. Triton costa un terzo e non è a carico soltanto dell'Italia, sarà un enorme risparmio per noi, cambieranno moltissimo le cose, diceva Alfano all'epoca, ministro dell'interno, parlando di quello che adesso vogliamo invece abbandonare. Alfano, ministro degli esteri, Gentiloni, primo ministro, ombra renziana, Renzi allora al governo, scusate la confusione, ma è così. A nessuno sfuggiva il peso che avrebbe avuto quella clausola sui porti italiani, perché tutto sarebbe confluito nei porti italiani a patto di avere questi aiuti europei, perché allora non c'erano questi flussi forti dalla Libia e c'erano ancora le rotte balcaniche, cioè via terra si passava. Adesso che le rotte balcaniche sono praticamente chiuse e tutto arriva via mare, tutto arriva dalla Libia, capite che quell'accordo fatto dall'Italia è adesso controproducente per il nostro paese. Direi che su questo argomento anche possiamo chiuderla qua, e invece voglio leggervi su quello che è accaduto a Torre Annunziata, il crollo di una palazzina, 7 vittime. Sergio Rizzo, tratto da poco passato dal Corriere della Repubblica, scrive: cantiere sbagliato, crolla il palazzo, la tragedia di Torre Annunziata, 3 morti e 5 dispersi, forse però sono 4 i dispersi. Però Sergio Rizzo si concentra su un particolare, che è il libretto libretto casa, che avrebbe essere potuto un libretto salvavita. Impossibile dire se la tragedia di Torre Annunziata, con il suo insopportabile carico di sangue, dolore e macerie, si sarebbe evitata. Il libretto casa da solo probabilmente non ce l'avrebbe fatta a salvare quelle vite, ma un allarme l'avrebbe fatto scattare. Di cosa parla Sergio Rizzo? Di un fascicolo di fabbricato o libretto casa. Sarebbe un documento che custodisce la storia di ogni immobile, racconta gli interventi di ristrutturazione, interventi nel tempo, ne descrive puntualmente le condizioni, lo stato di conservazione, né più nemmeno di come si fa in Francia, dove ogni intervento di ristrutturazione non può essere autorizzato se prima non verificato con la situazione reale dell'immobile, per come rappresentato nel documento condominiale. In Italia invece se ne parla da 20 anni, ci ricorda Sergio Rizzo, ma ogni volta che siamo vicini all'approvazione di questa cosa sfuma, perché il fatto, dice, non è confessabile, dice Sergio Rizzo, è che se si conoscesse il reale stato del patrimonio immobiliare privato, il suo valore scenderebbe drasticamente, ed è ciò che spaventa davvero, anche se è in gioco la sicurezza. 2 milioni di case a rischio in Italia, secondo Repubblica, ma secondo altri giornali, il Giornale in particolare, sono addirittura 6 milioni le case in Italia a rischio. Io mi fermo qua, vi ricordo che c'è il Giornale Radio con Si può fare, poi ci ritroviamo dopo in diretta a partire dalle 8:15 più tardi. Se pensate che una volta caduta Raqqa ci potremmo dimenticare dell'ISIS, se pensate che il pop coreano dei BTS non invaderà mai le discoteche europee, se pensate che 20 milioni di persone a rischio carestie in Somalia, Sud Sudan, Yemen e Nigeria non ci riguardino. This is just one of many camps for displaced people in Somaliland. They get some water from aid agencies. E se pensate che le battaglie per i diritti di gay e lesbiche in Russia siano affar loro, questo programma non fa per voi. Se invece pensate anche voi che il mondo è troppo piccolo per pensarlo ancora grande, vi aspetto qui, a Nessun Luogo è Lontano. Giornalisti, fotografi, politici, attivisti e analisti, i migliori e più preparati, vi racconteranno la grande attualità internazionale e i temi del nostro tempo. Vi racconteremo come un battito d'ali dall'altra parte del mondo può scatenare tempeste anche su di noi. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun Luogo è Lontano, dal 9 luglio, tutte le domeniche alle 19:10, qui su Radio 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body, so don't stop, stop. Eccoci qua, 8:14, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno, buon sabato a tutti da Carlo Gabardini. E allora, oggi siamo un po' in anticipo, c'è un palinsesto già semi estivo, ci sono delle novità, poi ce ne saranno delle altre. Noi siamo in onda oggi in diretta, domani invece ci sarà un meglio di. Mi piace che lo dici con questa tranquillità, siamo in leggero anticipo, ma in realtà è che eravamo in ritardo perché siamo abituati a iniziare un po' dopo e quindi siamo corsi dentro nello studio, sì. Si può dire questo, tanto non si abbiamo fatto una specie di 100 metri ostacoli, siamo vivi però. Esatto, siamo questa vivi e cerchiamo di mantenere delle voci invece molto pacate. Molto non è vero che siamo corsi dalla macchinetta del caffè a qui come due pazzi, mettendoci un po' meno di 6 secondi. Carlo, Milano Monterosa. Sole, c'è il sole, c'è caldino e ne siamo contenti. Sono iniziati i saldi, quindi va bene. Tutto bene, tutto anzi, in realtà bene. Sono iniziati settimana scorsa i saldi. Invece volevo fare i complimenti a Paolo Cognetti, che ha vinto lo Strega con un bellissimo libro che si intitola Le otto montagne. 800 24 00 24, vi aspettiamo per stare con noi anche questo sabato mattina, per commentare tutto quello che sentite, per giocare anche con noi come sempre. E chi, a proposito di libri, chi risponderà, chi cioè, poi ultimamente non abbiamo ricordato che tutte le volte assegniamo un libro, però sappiamo, no, è vero, chi chiama, chi indovina il gioco, chi risponde, poi c'è sempre un libro e lo vince veramente, sì. Anche se noi magari ci dimentichiamo di annunciarlo o di in realtà quelli più bravi di noi poi chiamano e dicono: ma guardi che lei ha vinto un libro, e li fanno scegliere lì. No, scegliere il libro è a seconda della tematica del gioco. Allora, questa volta c'è Renzi, perché questa cosa, aiutiamoli a casa loro, no? Apriti cielo, perché, ma come lo slogan della Lega, in effetti è pari pari, preciso, quel famoso slogan della Lega, no? Poi, sì, che non credo che sia solo della Lega, è un po' una vecchia teoria, è quelli che dicono accogliamoli, quelli che dicono no, bisogna far sì che loro stiano bene nel loro paese, e di modo che non abbiano nemmeno il desiderio o il bisogno, sì, la necessità di emigrare, e ognuno c'ha anche voglia di stare nel proprio paese. Che poi voglio dire, se tu fai veramente così, che investi nella cooperazione, lo sviluppo, per lo sviluppo dei diritti in Africa, per garantire l'accesso all'acqua, alle medicine, a tutti, è una cosa contro cui nessuno potrebbe, anzi, credo sia una cosa super di sinistra anche dal punto di vista della sinistra di Renzi, eccetera. Il problema è che questa cosa non la fa mai nessuno, anzi i fondi alla cooperazione sono stati tagliati vie più in questi anni, quindi nessuno quando dice questa cosa è seriamente molto credibile. Ma al di là di questo, il problema è un altro. Il problema è, come dici tu giustamente, il fatto di prendere uno slogan comunque. Il cambiamento, il volta faccia, il volta gabbana. Allora noi vi chiediamo, ascoltatori, quella volta che è successo anche a voi di cambiare opinione, insomma, perché può succedere, anche magari può essere a volte anche positivo. Ma la maggior parte delle volte in realtà, no? Mi sembra che si dica che chi non cambia mai idea è uno stupido, nel senso che non cambiare mai idea vuol dire che tu sai già tutto. Quindi ci interessa sia chi la volta che hai dovuto proprio dichiarare il contrario di quello che avevi dichiarato 7 minuti prima, però anche le volte che invece hai deciso, hai cambiato idea, e questo è un meglio. Può succedere con la suocera, prima la odi, poi scopri che la ami. Con la moglie, prima ti piace, poi scopri che ne preferisci un'altra. Ecco, per esempio, pure al lavoro può succedere che si cambia dal marketing alla produzione di marmellatine nell'agriturismo. Quante volte noi ne parliamo di questo? Com'è che si dice? No, usiamo sempre una parola inglese che non mi viene. Il downshifting. Bravissimo. Il downshifting, appunto, persone che magari fanno i manager e improvvisamente invece decidono che vogliono coltivare l'orto in campagna. Insomma, i vostri cambiamenti a 180 gradi. 800 24 0024, vi aspettiamo. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Now you get it, now you're feeling your worth. Feeling the sound you used to make when everything used to hurt. It goes, oh. No time to rest. Just do your best. What you hear is not a test. Eccoci qua, e allora diamo il buongiorno a Dario Nardella, sindaco di Firenze, benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi e radioascoltatori. Buongiorno sindaco. Tra l'altro coordinatore ANCI delle città metropolitane, perché vogliamo partire da qua con Nardella, perché diciamo c'è una, se vogliamo, una buona notizia in extremis, che è l'annuncio di stanziamenti a favore delle città metropolitane, perché partivamo da una situazione in cui eravate a secco. Qualcuno diceva riforma del Rio tramontata, città metropolitane che non hanno i soldi per le strade, per le scuole, la vecchia questione dei compiti delle province, ci sarebbe qua da discutere, eccetera, eccetera. Però c'è stato un incontro, e credo che ieri forse proprio Nardella. Sì, ieri a Milano ci siamo incontrati tutti i sindaci delle 14 città metropolitane. Mm. E nel frattempo sembra quasi che il governo abbia voluto in qualche modo venirvi incontro, oppure più maliziosamente diciamo evitare il rischio che andaste a una collisione, e sono arrivati questi soldi, anche una proroga per la chiusura dei bilanci. Soprattutto la proroga, perché uno dice vabbè, comunque ne parliamo a settembre. Esatto, è così? Beh, direi che non è sbagliato, tanto perché le città metropolitane siciliane e quella di Milano, come sapete, hanno grandissimi problemi collegati all'approvazione del bilancio, e quindi la proroga a settembre dà loro la possibilità di organizzarsi. E poi perché, come avete ricordato voi, il sottosegretario Boschi ha annunciato 100 milioni che però sono destinati a tutte le province, non solo alle città metropolitane, quindi si tratterà di capire quanti di questi 100 milioni andranno alle 14 grandi città italiane. Sì. E l'impegno di Gentiloni ad un incontro che chiedevamo da marzo e che finalmente avremo in questo mese a luglio. Perché, anche perché sì, anche perché, scusi Nardella, se abbiamo capito bene, nell'ordine diciamo delle mi perdoni il termine, delle sfighe qua degli enti locali, che in questi anni sappiamo che ce ne avete avute parecchie, le province stanno messe forse un po' peggio di voi, perché dovevano chiudere, non chiudono. E in questi anni hanno perso, secondo alcune stime, 4-5 miliardi di euro dal 2011 a oggi, eccetera, mentre voi, pur nelle difficoltà che avete segnalato, qualcosina avete avuto. E quindi insomma, è un po' una guerra tra poveri. È una guerra tra poveri, guardi, è una guerra, una triste guerra tra poveri, che però deve essere risolta in qualche modo. Io ovviamente parlo delle città metropolitane che conosco meglio. Come molti radioascoltatori sapranno, è l'unica riforma istituzionale che ha fatto il Parlamento fino ad ora, e siamo quasi a fine legislatura, no? L'unica riforma istituzionale, quindi l'unica novità nel panorama istituzionale, che tutti abbiamo accolto con grande gioia. Perché? Perché in tutta Europa le città metropolitane sono un po' il traino dei paesi. Non a caso in Italia queste 14 grandi città, da Milano a Palermo, raccolgono l'80% dell'innovazione, il 40% del PIL dell'Italia, quasi il 40% della popolazione, insomma sono davvero le locomotive del paese. Allora il buonsenso cosa ci dice? Se io aggancio la ripresa economica a queste grandi città, non solo questa ripresa sarà strutturale, ma ne beneficerà tutto il paese. È qui il nodo. E allora è giusto che il governo, una volta per tutte, visto che ha sponsorizzato questa riforma, questa maggioranza parlamentare, dica le città metropolitane sono una priorità. Se invece devono essere solo un problema, troviamo il modo, perché, come dire, per tornare indietro, certo, ma io credo sarebbe sbagliato. Ricordiamo anche agli ascoltatori una cosa, perché immagino già qualcuno che è lì con le antenne dritte che dice ecco sì, soldi, finanziamenti alle province, no, ma chi è il personale politico, e qua la spesa pubblica, lo spreco, eccetera. Sicuramente va fatta la spending review a tutti i livelli, anche se a livello centrale dobbiamo dire che si è visto poco, cioè si sono visti tanti commissari andare e venire, e a livello nazionale forse si è risparmiato poco, si è risparmiato forse di più proprio da voi negli enti locali, che hanno delle competenze, perché le città metropolitane, strade e scuole per esempio, parliamo di questo, no? Guardi, due dati: le città metropolitane da quando sono nate, cioè da 2 anni, hanno ridotto in modo drastico i dipendenti, alcune fino al 50%, e hanno anche ridotto per forza di cose tutta la parte economica delle risorse. E nonostante questo hanno approvato gli statuti e stanno approvando i piani strategici, stanno facendo il loro dovere. Ma è chiaro che bisogna andare avanti sulla gestione ordinaria, come dice giustamente anche lei, di infrastrutture importanti. Pensiamo anzitutto alle scuole e alle strade, ma soprattutto le città metropolitane devono fare ciò per cui sono nate, cioè devono essere un po' le lepri dell'Italia, e quindi sviluppare quelle competenze di promozione economica. Non mi faccia fare la battuta, perché le lepri facevano anche, adesso non so se sono una messe brutta fine. Esatto, una brutta fine. Beh, questo è vero, ecco, speriamo non sia. Speriamo di no. Ma però ecco, quindi noi abbiamo anche dimostrato che i risparmi si possono fare, le famose razionalizzazioni si possono fare. Le dico un'altra cosa: né i sindaci metropolitani e né i consiglieri metropolitani percepiscono un centesimo, quindi non ci sono neanche i famosi costi della politica, certo, in queste città metropolitane. Ma quindi mi scusi la domanda da stupido, ma in realtà qual è lo scopo delle città metropolitane? Nel senso che se è nel momento in cui non ci sono più le province o non dovrebbero più esserci le province, in alcune zone si dice va bene, ma qua dobbiamo decidere in maniera non solamente cittadina con il sindaco, ma gestire un'area più vasta, appunto, perché sì, sono aree particolari. Quindi sì, è in sostanza prendersi, accollarsi i compiti che prima erano della provincia, o è un altro, o è un progetto diverso? E qui è il punto, perché la riforma del Rio ha tracciato sicuramente una distinzione, ma questa distinzione non è completa, per cui le 14 città metropolitane che hanno sostituito le vecchie province negli stessi confini assomigliano ancora troppo agli enti da cui provengono. Siamo un po' la copia sbiadita, e invece le città metropolitane devono fare quello che già le loro sorelle in altri paesi come la Germania, la Francia, l'Inghilterra fanno, ovvero cosa? Sono degli enti di coordinamento delle grandi aree urbane, dove si fanno gli investimenti per le infrastrutture, dove ad esempio si fa l'attrazione di investimenti per le grandi imprese, dove si sviluppano politiche integrate tra il territorio rurale e la città urbana. Insomma, pensate alla Spagna, Madrid, Barcellona, sono i nodi di sviluppo del paese. Pensate alla Germania. Ma la Germania quante città metropolitane ha? Il numero esatto non no, ma più o meno, per capire. Ma siamo sempre sotto la decina, anche se hanno, diciamo differenze giuridiche tra di loro, no? Il sospetto da noi è che poi si parte con 5, 6, 7, 8, esatto, 10, siamo a 14. No, no, no, siamo a 14, arriveremo a 21 e sono le... No, 14... e sono le regioni, se, no? Nessuna proliferazione, non sia mai. Io mi opporrei fino allo stremo, no? Ad un aumento. Qual è la città metropolitana messa peggio in questo momento coi bilanci? È una bella gara, però le posso dire che la città metropolitana di Milano, nonostante che il comune capoluogo di Milano vada molto bene, come ha detto anche il collega Sala, purtroppo la città metropolitana di Milano ha grandi difficoltà. E quella messa meglio, ce n'è una che invece per qualche motivo, ma guardi, per una congiunzione astrale? Beh, ci sono città come Bologna, Genova, anche Firenze, vanno benino, ma le ripeto, è una guerra tra poveri, perché anche le città metropolitane che hanno approvato i bilanci, sì, purtroppo si portano dietro la mole di debiti che ereditano dalle vecchie province. Quindi per questo noi chiediamo al Presidente del Consiglio Gentiloni, che comunque ci ha detto che ci vedrà presto, due cose. Uno, completare questa riforma del Rio, che è un po' in mezzo al guado, no? Cioè le città metropolitane devono essere davvero qualcosa di nuovo. Ha detto una... guado o guano? Bella, bella questa. Guano, sì, diciamo. Siamo lì, siamo lì. Scusa, non volevo interromperla. Senta, Dardella, tra l'altro, oggi sulla stampa c'è tutta due pagine sulle città d'arte, sul turismo, su come regolare i flussi, perché ci sono vari tentativi. Allora, insomma, in Liguria il tentativo di chiudere le spiagge pubbliche a numero chiuso, e farla a numero chiuso sembra che sia tramontato. Non si può in pratica impedire a nessuno di andare in luoghi pubblici, ci sono delle difficoltà, però altrove si sta tentando. Voi pure a Firenze siete in questo dibattito, cosa state cercando di fare? Credo di aver capito un progetto che riguarda il biglietto di alcuni musei per, insomma, ma soprattutto è stato riaperto il passaggio degli Uffizi, giusto? Sì, questa è stata davvero una conquista storica, direi, perché dal 1871 quel famoso percorso che Giorgio Vasari aveva realizzato per il grande Cosimo de' Medici nel 500 purtroppo è stato diviso in due. Quando Palazzo Vecchio è passato al comune e gli Uffizi sono rimasti allo Stato, il percorso è stato diviso in due e separato da una porta a doppia mandata con due chiavi. Certo. Ci voleva quella del sindaco e quella del ministro. Perché di nuovo c'era. Mi scusi, perché in realtà è di nuovo lo stesso tema. Perché è l'emblema della burocrazia. Eh sì, esatto. Perché uno è comunale e l'altro invece è statale. Quindi di nuovo uno dice: bravo, no, il nostro biglietto è nostro, il vostro. Voi cosa siete? Città metropolitana, provincia, regione. E invece il cittadino entra in un museo, queste cose non se le chiede. Giustamente. Se le deve chiedere. Allora, con il ministro Franceschini abbiamo detto: riapriamo intanto quella porta, in modo che i visitatori di Palazzo Vecchio possano accedere direttamente agli Uffizi. Però tornando alla sua domanda sul turismo, io vorrei dire che ogni città è diversa dalle altre, questo è anche il bello di una grande città, e quindi non esiste una ricetta unica per tutte, soprattutto sul fronte dei flussi turistici. Sì. Venezia è molto diversa da Roma, Firenze è diversa da una città balneare come Napoli, come elimini. Per quanto riguarda Firenze, noi non possiamo ovviamente applicare il numero chiuso agli spazi pubblici, anche perché ci sono ancora molti residenti, lavoratori nel centro storico, però è giusto avere strumenti per contare i turisti, in modo da conoscere i flussi. E poi un mix di azioni, molto rapidamente ad esempio, noi stiamo studiando un biglietto stagionale e a fasce orarie per incentivare l'ingresso dei musei e i turisti nei mesi di bassa stagione e negli orari dove c'è meno afflusso. Quindi costerà di meno nell'orario di meno flusso. Esatto, ma esatto. Ci può fare un esempio per capire? Non so, quanto meno? Palazzo Vecchio, che è il museo comunale più importante, se tu vieni il sabato e la domenica pagherai un po' di più, ma da maggio a settembre. Se vieni nei mesi di bassa stagione, che so, a febbraio a novembre, e vieni nei giorni feriali, la mattina... pagherai di meno, questo per incentivare. Ma quanto meno? Quanto meno e quanto più? La stiamo studiando, però deve essere una fascia, come dire, che sia convincente anche per i visitatori. Cioè, per deve essere una cosa che si vede, tipo la metà del prezzo, una cosa del genere. Certamente qualcosa di significativo. Ma saranno dei prezzi fissi, oppure, perché da come la sta raccontando, che mi sembra molto bello, perché avevo letto è questa cosa. È una cosa nuova, non è mai stata fatta. No, esatto, mi chiedevo se nasceva una sorta di borsa dello sbigliettamento, nel senso che se c'è più offerta o meno, si alzano e si abbassano i prezzi. Non possiamo arrivare al livello delle compagnie aeree, no? Che da un'ora all'altra, però certamente possiamo arrivare a una flessibilità per cui con solo qualche mese di anticipo possiamo anche modificare le tariffe a seconda dei flussi turistici che sono annunciati. Sì. Ma questo aiuta molto, come per esempio il fatto che abbiamo raddoppiato il ticket dei bus turistici. Voi immaginate una città d'arte di invasione di torpedoni, soprattutto per i turisti mordi e fuggi che vengono per qualche ora e basta. È sicuramente impattante, molto costosa ed è degradante per le città. Noi abbiamo semplicemente raddoppiato il costo dei bus turistici giornalieri e difatti sono diminuiti i bus. Ma adesso i turisti come fanno? Vengono in elicottero, in bicicletta. Diciamo che allora c'è qualcuno che si può organizzare con il treno ed è già meglio, almeno diminuisci il traffico. Sì. Ma c'è anche chi magari rinuncia a venire in città per poche ore, perché il turismo mordi e fuggi è uno dei problemi principali delle grandi città d'arte italiane: Venezia, Firenze, Roma. Quindi è scattata ufficialmente, come dire, la guerra al turismo mordi. Però ora che l'Italia sta recuperando posizioni nel turismo, anche perché altre mete magari più esotiche sono più in difficoltà per questioni legate anche alla sicurezza, ma è il caso di darci la zappa da sole sui piedi? Bravo, questa è una domanda che io apprezzo molto, perché noi non dobbiamo fare la guerra a tutti i turisti. Attenzione, perché altrimenti perdiamo un'opportunità economica straordinaria. Solo l'anno scorso a Firenze abbiamo avuto 3.000 posti di lavoro in più, soprattutto giovani, grazie al turismo che è aumentato. Dobbiamo invece distinguere e investire su un turismo di qualità, ad esempio attraverso un'offerta culturale. Quando i turisti rimangono e dormono nelle città, spendono anche di più, vanno nei ristoranti, dormono negli alberghi, vanno nei musei, e comunque un turismo che resta di più in una città è anche un turismo più consapevole. Sì, credo che l'Italia debba avere questa strategia, attrarre un turismo anche giovane magari. Ecco, ci sarà posto anche per quello, perché io quando sento dire turismo di qualità ho sempre paura di vedere sbucare Briatore all'orizzonte con i suoi resort milionari, però ci sono anche i ragazzi in sacco a pelo che vanno in vacanza, non a Firenze. Le dico, un altro fenomeno che sta crescendo ora a Firenze e a Roma: i famosi student hotel. Non sono mai esistiti, ne stanno realizzando uno a Firenze e uno a Roma. Sono pensati proprio per un turismo giovanile, di studenti stranieri che magari passano un mese o qualche mese nelle città italiane perché fanno dei corsi estivi o vanno nelle università straniere. Anche questo è turismo, ed è un turismo di grande qualità, è un investimento sulle nuove generazioni. Bene, siamo un po' più tranquilli. Senta, un'ultima cosa che le vogliamo chiedere. Prego. Riguarda le periferie. Cioè, avete fatto un annuncio recentemente, che un investimento, insomma, che prevede anche nuovi assunti nella polizia locale, se abbiamo capito bene, giusto? Sì. Una trentina 48 nuovi agenti di polizia municipale. Perché questa è una questione annosissima, Nardella. Non si capisce come mai la polizia municipale, che ha mille compiti, il commercio, gli abusivi, i controlli stradali, i deore estivi, la movida, eccetera, eccetera. Però in questi anni, col blocco del turnover, tutti i comuni hanno visto diminuire drasticamente. Ma si può sbloccare questo cosa del turnover? No, allora, grazie al cielo il governo lo ha fatto già. E infatti noi abbiamo potuto cominciare a riassumere, e come molte altre città, perché l'avete detto voi, le polizie municipali devono fare di tutto, non è che un agente, un vigile, se vede uno spacciatore si gira dall'altro lato, e così deve occuparsi di incidenti stradali, attività commerciali. E noi abbiamo rilanciato il vigile di quartiere, vecchio poliziotto di quartiere, un po' come i Bobby. Il Bobby, esatto. Esatto, che sono un elemento molto positivo, perché il cittadino ha bisogno anche di una presenza fisica, ha bisogno di un interlocutore, anche riconoscibile. Quando si sente parlare della sicurezza, c'è anche una quota di percezione di insicurezza molto forte, che è dovuta spesso all'assenza proprio fisica di un interlocutore che rappresenta le istituzioni e le forze di polizia, per un commerciante, per un residente, per un signor anziano che va magari alla posta a prendere la pensione. La presenza sul territorio è fondamentale. Io vedrò tra l'altro il ministro Minniti a breve e affronterò con lui, anche per tutte le città metropolitane, questo tema delle forze dell'ordine sul territorio. Le faccio l'ultima domanda, perché ho letto questa cosa bella, che appunto, a proposito di essere presente sul territorio, di occuparsi anche delle periferie, lei trasferirà il suo ufficio in periferia per un giorno alla settimana. Sì, è così? Ho pensato di fare proprio così. Ma come avviene questa cosa? Nel senso, non le portano proprio la scrivania, immagino. Mi prendo il mio quadernino, mi prendo il mio portatile, tanto ormai sapete che, voglio dire, grazie a internet e ai cellulari si può anche lavorare. È tutto in cloud. Da un bar, da un caffè. e abbiamo le linee telefoniche collegate e mi trasferisco un giorno a settimana, perché credo che bisogna anche dare dei messaggi che non sono solo simbolici, appunto, di presenza. E quindi lei sposterà i cittadini, non deve essere cittadini a venire sempre in comune a parlare, certo, dei loro problemi. È il sindaco che si mette lì, e se trovo una biblioteca mi metto dentro una nostra biblioteca, se c'è la sede del quartiere mi metterò nella sede del quartiere, ricevo i cittadini, incontro i commercianti e incontro anche i miei dipendenti per le nostre riunioni di lavoro. Beh, questo mi sembra una cosa molto bella, quindi la domanda ogni settimana è: dove sarà il sindaco Nardella oggi? Lo scopriremo, esatto, solo vivendo. Esatto. Senta, Nardella, è una bella caccia al tesoro. Resti ancora un minuto con noi se vuole, perché io gliela devo porre questa questione. Siamo partiti dalle frasi di Renzi sulla questione di aiutiamoli a casa loro, perché è scoppiato un pandemonio. Abbiamo chiesto agli ascoltatori quando loro hanno cambiato opinione, perché a volte cambiare opinione può essere anche positivo. Allora, intanto c'è Tina che ci scrive: giovane, bella, un giorno ho deciso di cambiare, sono diventata vecchia, sono andata in pensione, sono piena di dolori. Vabbè, l'ironia dell'ascoltatrice, questa non è. Poi c'è un altro che scrive: pensavo Radio 24 fosse una roba noiosa dedicata solo all'economia, poi il mio ragazzo 5 anni fa mi ha fatto sentire la Zanzara, poi ho sentito voi, ora la sento praticamente sempre. Si cambia idea su tante cose. Bravo, grazie a questo ascoltatore. Nardella, è un volta gabbana quello di Renzi? No, io credo di no. Al di là appunto dell'incidente comunicativo che tutti hanno visto, io ho sempre visto Renzi in una posizione chiara sul tema dell'immigrazione, che poi è anche per mia, e cioè che bisogna investire sulla cooperazione e lo sviluppo. Lui peraltro, quando era Presidente del Consiglio, lo ricorderete, con i leader europei insisteva sul fatto che bisogna investire sulla cultura e anche sulla cooperazione allo sviluppo. Pensate che l'Unione Europea spende, non l'Unione Europea, diciamo i 28 paesi dell'Unione Europea insieme, spendono in armamenti il doppio di quanto non spendano in cooperazione allo sviluppo. Non mi sorprende però questo. Esatto. È vero. Qual è la differenza con la Lega? Arriviamo a casa loro, è uno slogan, poi non è mai stato fatto. Il governo precedente, per esempio, nell'Africa subsahariana ha basato il primo centro di riconoscimento dei richiedenti asilo, perché la, diciamo, cooperazione anche nei confronti dei migranti va già a partire dai paesi di provenienza. E poi le racconto un piccolo concreto progetto nostro di Firenze con l'università. Abbiamo aperto una facoltà di architettura a Fez, in Marocco, dove studiano, si formano giovani marocchini per diventare architetti e magari trovare un lavoro, creare un lavoro nel loro paese. Bisogna far così. E farlo tanto, perché se ci fermiamo agli slogan è finita. Grazie Nardella, buona giornata. 800 24 00 24, vi aspettiamo tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua all'800 24 00 24. Ci ha chiamato Giampiero da Milano. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Buongiorno. Vai Giampiero. Niente, io volevo raccontare velocissimamente la mia storia. Io ho 43 anni. Mi sono laureato nel 2006 in scienze dell'educazione e poi specializzato in pedagogia. Sì. E poi ho fatto il precario, praticamente supplente, non riuscivo a trovare un posto di lavoro, portavo a casa poco più di 700 euro al mese. Sì. E all'età di 37 anni ho deciso di dare una svolta completa alla mia vita. E qua è arrivato il cambiamento che noi chiediamo stamattina a voi ascoltatori. Un fortissimo cambiamento, perché sì, ho spostato il mio orario lavorativo alle ore serali notturne per mantenere i nuovi studi, ho affrontato un test d'ingresso pesantissimo all'università, insomma, per farla breve, adesso sono un dentista. Guadagno in un giorno. Lo sappiamo. Non dicelo così, però. Invece, complimenti all'onestà. Complimenti. Mi sento male perché ho appena finito di andare al dentista per un ciclo di robe. Quando si fa un ciclo è quando arriva la fattura. Esatto. Mamma mia. Bisogna essere onesti. Oggi il dentista più incapace, neolaureato e tutto, viene pagato intorno alle 30 euro all'ora. Che una signora paga. Poi io ho avuto sempre un'ottima manualità, perché ho fatto sempre tanto bricolage in casa. Se sei bravo, poi ti contratti anche un prezzo un pochettino più alto. Non voglio entrare nelle particolari del bricolage del dentista, perché dal bricolage alle cure ai denti ce ne corre. Però Giampiero, questa è la tua svolta, noi la accogliamo molto anche bene. Perché hai fatto molto bene a raccontarcela, appunto, perché cerchiamo anche svolte positive, un cambiamento positivo, perché non è detto che quello di Renzi sia un cambiamento negativo. Pier Giovanni da provincia di Macerata, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Vai. Buongiorno. Volevo dire, a proposito del cambiamento di opinione del PD, no, di sì, Renzi, eccetera, sì, di altri esponenti, che questi non è una risposta praticamente al risultato elettorale, anche se molto parziale, che ci ha avuto una connotazione politica, nel senso che io penso che il governo fino a oggi ha attuato una politica verso gli immigrati contraria a quello che pensa la maggioranza degli italiani. Mi spiego, a Civitanova Marche c'era un'amministrazione fino all'altra domenica di sinistra e hanno perso le elezioni. A chiudere la campagna elettorale è venuto il ministro degli interni Minniti, ha parlato di accoglienza, di inclusione, eccetera. Poi adesso, dopo il risultato elettorale che è stato negativo in tutta Italia per la sinistra, adesso parla che bisogna fermare gli immigrati giù in Libia, eccetera. Quindi è un cambiamento dovuto, secondo me, al risultato elettorale. Lo sospettano e si tutti, sì, anche delle politiche prossime del prossimo anno. Va bene, Pier Giovanni, è quello che in realtà sospettiamo un po' tutti. D'altra parte bisogna dire anche che non cambiare mai idea non è di per sé una cosa positiva, e anche che il fenomeno dell'immigrazione è un po' cambiato negli anni, perché è vero che c'è chi lo dice da tanto tempo che bisogna porre un argine, eccetera, eccetera. Però è vero anche che questa ondata di sbarchi non era la stessa 10 o 15 anni fa. 800 24 00 24, ma al di là della questione, noi vi aspettiamo anche per i vostri racconti, un po' come ha fatto prima Giampiero, i vostri volta faccia o anche volta gabbana, perché può succedere di cambiare opinione, non sempre una cosa negativa, anzi può essere una cosa anche positiva, anche nella politica. Magari avete votato a scatola chiusa per tanti anni, poi vi siete informati e avete cambiato. 800 24 00 24. scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le salite senza avere una borraccia, giù per le discese con il vento sulla faccia, perché la bicicletta non importa dove porti, è tutto un equilibrio di periodi e di rapporti, è tutta una questione di catene e di corone, di grasso che lubrifica la vita alle persone. Come nella vita c'è una ruota che gira, una ruota che spinge con quest'aria che tira, se una ruota si fora la caduta è sicura, una toppa ripara, una ferita si cura. Non avere paura che se no ti deconcentri, devi far coincidere i pesi e baricentri, l'impegno d'una coppia per un singolo momento, due le forze in gioco, un solo movimento. Pedala, insegui la tua storia ovunque vada. E a furia di pedalare, a Torino adesso c'è l'assessore alla bicicletta. Esatto, è stato appena istituito l'assessore alla bicicletta, che è qua con noi al telefono, Maria La Pietra. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Noi siamo felici che ci si occupi delle biciclette in maniera specifica. La immaginiamo in bicicletta anche in questo momento, giusto? Certo. Lei dorme anche in bicicletta, naturalmente. È in realtà una delega all'interno dell'assessorato ai trasporti, perché c'è stato uno spostamento, un cambio di delega, ma queste sono questioni, diciamo, burocratiche. Beh, però è interessante in realtà, perché il cambio di delega era dall'assessorato all'ambiente a quello alla viabilità. In qualche modo è dire la bicicletta non è semplicemente una cosa che fa bene all'ambiente, ma è un mezzo di trasporto, giusto? Esatto. No, io ve lo devo dire proprio in verità, mi vergognavo di essere l'assessore alla mobilità insostenibile, perché senza la bicicletta non era possibile. Questo ero fino a ieri. No, perché la delega alla mobilità sostenibile ce l'aveva l'ambiente. E quindi quindi lei era quella all'altra mobilità, quella insostenibile. Esatto, io l'assessore al traffico prima. Senta, rilanciare la bicicletta, sì, ma come, no? Per esempio le piste ciclabili, ne state facendo, so che si sta investendo, ma c'è una misura minima per la pista ciclabile? Perché a volte io vedo fare piste ciclabili, ma sono delle striscioline di 74 metri con i cordoli di cemento di lato e sembrano quasi più pericolose che altro. No, esatto. No, allora, a Torino non solo c'è stato questo cambio di deleghe, ma anche proprio un cambio di struttura all'interno del mio assessorato, quindi della mia struttura, del mio dipartimento. Perché Torino, sapete anche voi, si basava sulle grandi infrastrutture, ponti, strade, metropolitane. In realtà molto poco era pensato sulla mobilità sostenibile. Diciamo, in più è la città della Fiat, quindi ci immaginiamo che ci si occupi più di automobili che di biciclette. Esatto. E quindi non è stato solo un cambio di delega, ma la cosa importante è che è stato proprio un cambio nella struttura, quindi avrò addirittura un dirigente alla mobilità sostenibile con due strutture sotto di lui, che saranno uno sulla pedonabilità, la camminabilità, e uno sulla ciclabilità. E questo è molto importante, perché al di là di me, che gli assessori vanno e vengono, le giunte vanno e vengono, i dipendenti comunali sono quelli che rimangono. Certo. E avere una mentalità diversa, e non solo incentrata sull'infrastruttura, ma sulla mobilità, non è solo la bicicletta ovviamente, ma tutto quello che riguarda la mobilità e il futuro. Quindi io spero che non sia solo un cambio di deleghe, ma proprio un cambio della struttura e della mentalità delle persone che lavorano qui da 40 anni e continueranno a lavorare a Torino dopo di me. Ma lei, per esempio, personalmente, torno sulla questione delle ciclabili, è favorevole alle ciclabili? Perché qualcuno dice, per esempio, guardando anche altri paesi, Nord Europa, si parla di strade condivise, di spazi aperti, senza cordoli, eccetera. Lei di quale delle due scuole? Ma allora, dipende dalla strada, ovviamente. Qui a Torino ci sono strade molto pericolose, con alta velocità, e quindi è fondamentale avere una pista ciclabile. Noi abbiamo istituito anche una consulta dei ciclisti, che ci stanno aiutando anche a dare le loro opinioni su come progettare le piste ciclabili, proprio parlando di larghezza, di anche, per esempio, un tempo venivano fatte piste ciclabili a doppio senso in centro strada. Queste piste ciclabili vengono utilizzate più che altro se fai dei tratti di strada lunghissimi, ma non vengono usufruite dalla viabilità del quartiere, perché non riesci a introdurti nelle piste ciclabili. Quindi da quando siamo arrivati, insieme alla consulta, nei nuovi progetti facciamo piste ciclabili lato strada, quindi lato marciapiedi, e monodirezionali, cioè un senso di marcia, che è quello che si sta facendo anche a Milano, devo dirlo. Purtroppo devo anche chiudere, io la ringrazio, assessore La Pietra, però grazie mille, magari torniamo a sentirci presto, perché ci sta sempre a cuore la sorte dei ciclisti, ma anche dei pedoni nelle città. Grazie. 800 24 00 24, GR, torniamo subito dopo. può fare. Cronache da un paese migliore. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legato a un'orbita. È un giorno fra tanti nel mondo, è un posto fra tanti nel tempo. Ci sono istruzioni per far funzionare le cose, ma non le comprendo. La fortuna non viene da sola, non si compra e non si regala. Le sue ali giganti distendono colpi, la vedi, ma lei ti sorvola. E la sorte ha voluto giocare in quest'angolo dell'universo. Io devo scappare lontano, seguire il richiamo di un mondo diverso. Se mi fermo lo so che io muoio, non resisto qui, non sopravvivo. Il giardino dei sogni profuma di fiori ed aspetta soltanto il mio arrivo. La statua della mia libertà si muove, una marea che non si ritirerà, si muove. La statua della mia libertà si muove, non sto legata a un'orbita. Qui nessuno ti spiega la strada per scegliere il lato migliore. Questa è Si può fare, come tutti i sabati e le domeniche mattina su Radio 24, e questa che abbiamo ascoltato, che stiamo ancora ascoltando in sottofondo, è La statua della mia libertà di Samuel. È una canzone che ci è stata suggerita da Piero da Cormano, che salutiamo. Come sapete, noi siamo sempre in cerca di Si può fare in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori o anche semplicemente degli ascoltatori e sentite una canzone che secondo voi ben racchiude il concetto di Si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, di inviarcela, così noi la faremo ascoltare. Come farlo? Mandandoci una mail a sipuofare@radio24.it oppure sui nostri profili social, su Facebook Si può fare trattino Radio 24, su Twitter @sipuofare24 oppure sui nostri account personali, io su Facebook, Instagram o anche Snapchat, come dice sempre Alessio, oppure sul mio profilo Twitter, sono sempre Carlo Gabardini. Anche sul profilo Twitter è @CarloGabardini. Io preciso, cioè anche il mio @AleMaurizio, io preciso che Snapchat non mi fa paura lui in quanto mi fa paura la paura Snapchat. Mi sembra una cosa terrorizzante. 800 24 00 24. Cari ascoltatori, oggi vi aspettiamo anche per raccontarci quando voi avete cambiato radicalmente idea, un po' come ha fatto Renzi, insomma, su questa questione dei migranti, perché è inutile negarlo, aiutiamoli a casa loro era lo slogan della Lega. Poi lui dice ma non abbiamo il dovere morale di accoglierli, ma di aiutarli, aiutiamoli a casa loro, è un discorso più ampio che sta nel suo libro, è stato stralciato una parte pubblicata sui social, però tant'è, è partito il tormentone del Volta Gabbana di Renzi. Noi vi chiediamo perché a volte cambiare opinione può essere anche positivo, per esempio nella vita anche personale, nel lavoro, passate da lavorare nella finanza a lavorare nell'orto, nell'agriturismo, ne abbiamo raccontate tante di storie così, oppure prima eravate convinti in vacanza, andavate sempre in un posto, poi avete scoperto, che ne so, dalla montagna al mare, e avete cambiato completamente idea. Esatto. O avete cambiato la squadra del cuore. Questo è difficile, però è difficile. Qui ci avvicina quasi al tema renziano. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Intanto abbiamo Andrea che ci chiama dalla provincia di Pescara. Benvenuto. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Buongiorno. Due piccoli appunti. Il primo, io li definisco effetti collaterali di questo sistema economico e finanziario che affama queste popolazioni. Aiutiamoli a casa loro. Faccio un esempio. Ho sempre ascoltato da piccolo, diamogli la canna da pesca, per esempio, non so, agli africani. Sì, ma se noi rubiamo i pesci dal lago, loro cosa devono pescare? Mi riferisco alle risorse minerarie, ovviamente. E infatti li stiamo distraendo con la canna da pesca. Loro hanno la canna da pesca e intanto noi li portiamo via i pesci. Poi l'ultima, con la seconda cosa, questi mari li abbiamo solcati alla fine del Novecento, anche noi, con la rotta opposta, andando nelle nostre colonie o in America. Oggi che è il contrario, perché questo non può essere possibile? Quindi è una provocazione. Quando è servito a noi siamo andati e abbiamo fatto quello che abbiamo voluto, no? Abbiamo, tra virgolette, invaso, ma insomma non è una parola cattiva, proprio materialmente. Però sì. Oggi la rotta è inversa. Andrea, oggi grazie per averci chiamato, intanto, perché comunque il gioco di oggi ispira anche a riflessioni più ampie. In effetti oggi il Papa dice quello che dici tu, dice attenzione, perché lo posto, l'ho ripreso. Il colonialismo partì dall'Europa, ci furono aspetti positivi ma anche negativi. Comunque l'Europa diventò più ricca, la più ricca del mondo, e questo sarà dunque l'obiettivo principale dei popoli migratori. Andrea, come il Papa. 800 24 00 24, vi aspettiamo per i vostri volta faccia, però adesso è il momento di girare la faccia della settimana con le 5 finalmente buone notizie, si può fare. E allora cerchiamo di invertire la rotta con 5 buone notizie. Al quinto posto abbiamo messo Amatrice, colpita dal terremoto, grazie alla Onlus La Via del Sale, con dei moduli abitativi. Torna ad Amatrice il medico di base, che prima doveva stare lontano e farsi un sacco di chilometri per andare a visitare i suoi pazienti, adesso finalmente ha una casa stanziale e ha un posto dove visitare le persone. Quindi finalmente, e poi insomma, noi non vi dimentichiamo lì ad Amatrice. Al quarto posto invece, buona notizia per quanto riguarda gli ecomostri. A Modugno il Consiglio di Stato dà ragione al sindaco Magrone: abbattere l'ecomostro al quartiere Cecilia. È una storia antica, perché è un immobile di 6 piani che è rimasto incompiuto da 50 anni. La proprietaria ha addirittura presentato un ricorso in appello per riavere questo immobile, che sta ovviamente crollando, non è mai stato completato, è alto 6 piani, adesso è stato recintato e finalmente il Consiglio di Stato ha dato ragione al comune, che quindi potrà abbattere questo ecomostro. Potrà abbattere, perché al momento non è ancora stato abbattuto. Perché poi il problema è i soldi, bisogna trovare i fondi per farlo, i comuni spesso non ce l'hanno. Quando troveranno i soldi, promettiamo il podio a questa notizia. Benissimo, terzo posto, e qua siamo sul podio. Questa è una bella notizia che arriva da Pavia: frequenza universitaria e alloggio gratis per i più bravi, per gli universitari più bravi. C'è un concorso che ci sarà a settembre, i 16 migliori studenti universitari di Pavia che parteciperanno, lo diciamo, al concorso della scuola universitaria superiore IUS di Pavia, avranno diritto all'alloggio e a non pagare le tasse all'università. La meritocrazia giusta, mi sembra perfetto, anche perché l'università si chiama IUS, quindi direi IUS soli d'ora in poi. Secondo posto. Esatto, al secondo posto una notizia di cui abbiamo parlato, abbiamo sentito diversi protagonisti, ovvero il famoso algoritmo che ha falsato i costi degli abbonamenti per i pendolari. Ne abbiamo parlato, era un algoritmo per cui sull'abbonamento mensile si pagavano 30-40 euro in più, perché era sbagliato il calcolo quando il treno passava da una regione all'altra. I pendolari già vessati. Esatto, dal 1 luglio è scomparso questo algoritmo, che appunto è dal 2007 che ha portato a un aumento delle tariffe. Gli effetti si vedranno solamente dal 1 gennaio dell'anno prossimo, quindi se siete dei pendolari, questo riguarda almeno 17.000 viaggiatori, sappiate che fino a dicembre pagherete di più, ma che potete chiedere rimborsi, perché entra in vigore solamente dall'anno prossimo. Primo posto, una notizia nazionale, perché riguarda la nazionale di calcio, perché dopo un anno finalmente ci è voluto tanto, ma il presidente Tavecchio ha accettato di non rinnovare l'accordo di sponsorizzazione delle nazionali di calcio con la società di scommesse Intralot, perché insomma era una sponsorizzazione considerata pericolosa e diseducativa, quasi un'istigazione a scommettere, insomma, anche nei confronti dei ragazzi, dei giovanissimi che seguono la nazionale. Finalmente questo contratto, ha detto Tavecchio: abbiamo capito che avevamo sbagliato. Bravo Tavecchio, viva il gioco pulito! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, come diceva vecchio grandissimo Giorgio Gaber, la più grande forma di libertà qual è? La partecipazione, ti ricordi? Libertà, come no, la libertà non è star sopra un albero. Esatto, la libertà e la partecipazione che viene festeggiata, celebrata, approfondita, conosciuta, no, con il Festival della Partecipazione che si svolge all'Aquila proprio in questi giorni, tra l'altro di cui Radio 24 è anche media partner, e poi vi ricorderemo anche gli appuntamenti che ci riguardano. E allora a partecipare, però in questo caso a risolvere una questione grande, importante, ne abbiamo già parlato, è quella dell'accoglienza dei profughi, perché si parla di accoglienza diffusa all'interno di singoli nuclei familiari. Questo è quello che Refugees Welcome Italia porta proprio al Festival della Partecipazione dell'Aquila, ed è con noi Fabiana Musicco, che è la fondatrice di Refugees Welcome Italia. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora, anzi, benvenuta, visto che è la fondatrice, certo, di Welcome. Esattamente, quindi anch'io benvenuta questa volta, grazie per averci accolto. Ci mancherebbe altro, era benvenuta veramente. La forma di partecipazione che portate voi al Festival dell'Aquila è proprio questa: partecipare a risolvere in una maniera nuova, con questa forma di accoglienza diffusa, la questione dell'accoglienza dei rifugiati, dei profughi. Come funziona, Fabiana? Allora, funziona attraverso una piattaforma web sulla quale tutti quanti possono iscriversi per offrire la propria disponibilità ad ospitare un rifugiato, un richiedente asilo o una persona titolare di una forma di protezione. E quello che chiediamo è un minimo di 5 mesi di disponibilità, proprio perché l'accoglienza di persone che pure hanno fatto tutto un percorso all'interno del sistema nazionale, nel quale noi in questo momento non siamo ancora accettati e inclusi, sono persone che hanno bisogno ancora di un percorso che li riesca ad accompagnare verso una vita autonoma e dignitosa. E quindi chiediamo questo minimo di 5 mesi e chiediamo una stanza o uno spazio, insomma, che garantisca la privacy della persona. Sì. Non chiediamo altro. In realtà, perché chiedete già molto, non è una, esatto, cosa da tutti, cioè, anche perché ospiti un profugo in casa tua, se ti viene Salvini come minimo ti sgrida tantissimo, perché pensavo se ti viene Salvini come profugo, no, o pensavo stessi realtà... dicendo meglio un profugo che Salvini comunque proprio dentro casa. In realtà devo dirvi che una delle nostre famiglie iscritte dal Veneto si è iscritta sulla nostra piattaforma e poi ci ha detto che il nostro principale sponsor è stato Salvini, perché loro sentivano Salvini in televisione che diceva ospitateli a casa vostra, e loro hanno detto, sono andati sul web e hanno cercato un modo per farlo. Di farlo proprio letteralmente a casa loro. Beh, quali sono però, preciso, Fabiana Musicco, i vantaggi di questa forma di ospitalità più diffusa? Cioè, possiamo anche immaginarlo, no? Non si creano magari dei ghetti, si diluisce anche la presenza dei rifugiati comunque sul territorio in qualche modo, e poi si fa anche una forma di integrazione diretta, perché comunque sono persone diretta più forte un'integrazione all'interno di una famiglia, perché sono persone, dobbiamo capirlo, che alle quali stiamo dicendo vi diamo una protezione, vi diamo il diritto di stare qua, quindi resteranno in Italia. Esattamente, sono persone che innanzitutto non hanno scelto di lasciare il loro paese, sono stati costretti a farlo, questo non lo ripetiamo mai abbastanza. Sono persone che arrivano in una dimensione di vulnerabilità e purtroppo il lungo iter di accoglienza all'interno di grandi centri, che sono luoghi spersonalizzanti, sono luoghi che non favoriscono una integrazione con il territorio, non favoriscono neanche una reciproca conoscenza. La forma di accoglienza che noi proponiamo è un'accoglienza che include, che è paritaria, che consente di conoscersi, no? Quindi di superare anche un'immagine mediatica, spesso piatta, spesso anche in qualche modo a volte sbagliata, a volte forzata su alcuni aspetti, ma invece c'è una conoscenza reciproca e c'è anche una cittadinanza attiva, non solo dei cittadini italiani che scelgono di farlo, ma anche degli stessi protagonisti che vengono accolti, perché si trovano in una dimensione di parità. Entrare in una casa è impegnativo anche per loro, quindi l'impegno di chi apre la porta di casa vede anche l'impegno di chi entra in una casa e comunque si trova protagonista di un'atmosfera più intima, più raccolta, nella quale ci sono diritti e doveri, nella, certo, quale bisogna comprendersi. Quindi noi sentiamo di stare facendo un grandissimo lavoro che vuole portare ad un cambiamento culturale che riteniamo veramente importante, e stiamo facendo un lavoro in tutta Italia. In questo momento, mentre vi parlo, ci sono 50 persone accolte nelle varie città dove abbiamo creato dei team di attivisti, perché Per questo siamo al Festival della Partecipazione, perché siamo la prima organizzazione italiana che si occupa di migranti e di rifugiati e che ha chiesto alla cittadinanza di mettersi in prima persona con un'azione di volontariato qualificato, perché tutti vengono formati all'uso di una metodologia rigorosa. Sì. Voglio dire solo una cosa, scusa Fabiana, agli ascoltatori che ci stanno seguendo, comunque la si pensi su queste tematiche più generali che riguardano la gestione dell'immigrazione, c'è un dibattito in Europa, eccetera, eccetera. Dobbiamo tranquillamente capire e ammettere che voi state dalla parte di quelli che cercano di risolvere almeno una parte di questo problema in una maniera diversa, più umana anche, e sicuramente dare una risposta. Con te, Fabiana, dovrebbe esserci anche una delle persone che ospitano concretamente un rifugiato a casa loro, Stefana Pozio, giusto? C'è anche lei? Eccola qua. Buongiorno. Allora, le domande che ci vengono in mente sono tante, si affastellano. Io immagino che, insomma, è un percorso a cui si arriverà, probabilmente non è una cosa scontata. Quello che forse molti ti chiederanno, Stefania, ma alla fine, ma chi te l'ha fatto fare di metterti in un percorso del genere? Chi magari non ci ha neanche mai pensato, no? No, cioè, il problema è che secondo me nella vita, cioè, quando uno ha ricevuto tanto deve dare altrettanto, perché noi lo sappiamo, no, che la vita è un po' una ruota che gira, no? Allora tu hai avuto tanta fortuna e ci sono tante persone che questa fortuna non ce l'hanno avuta, allora cerchiamo almeno di condividerla. È quasi un modo scaramantico, tu dici, per evitare che poi magari domani giri negativamente, dici io intanto la mia parte in qualche modo la sto restituendo qualche cosa. Certo, questa è una motivazione anche egoistica da un certo punto, voglio stare bene anche con me stessa e con voi stessi. Voi siete una famiglia, Stefania, che... Allora, noi sì, viva questo egoismo! Sì. Sano eravamo egoismo. Una famiglia, avevamo, cioè, tre figli, e io e mio marito, poi diciamo due figli se ne sono andati perché sono grandi e una è rimasta con me, e mio marito, ci siamo separati e quindi adesso sono io con mia figlia, però sempre in questa casa grande, quindi avevamo una c'è un po' vuota. Di spazio, anche forse emotivo quasi, no? Per accogliere, sì, qualcuno. Chi stai accogliendo tu? Allora, io accolgo una ragazza di un paese che devo dire non avevo mai sentito prima, poi mi sono andata a documentare, che si chiama lo Swaziland, che sta vicino al Sudafrica. Lo Swaziland, sì, sospetto Swaziland, di averne sentito parlare qualche volta, sì. È un paese molto molto piccolo, sì. E lei c'ha una storia incredibile, perché praticamente è una monarchia assoluta questo paese. E c'è un re che ha diverse mogli e poi ci sono una serie di principi che ogni anno, ogni paio d'anni, organizzano delle feste in cui tutte le ragazze giovani devono partecipare, e loro, attraverso queste feste dove le ragazze ballano, danzano, eccetera, sceglie la sua ennesima moglie. Ah. E lei, che aveva 21 anni e questo qui ne aveva 65, è stata, diciamo, costretta, ha scelto praticamente. Lei. Sì. Esatto, è stata scelta, lei è molto bella. E, è stata scelta, niente, l'hanno, diciamo, costretta ad andare in questo palazzo. Ovviamente lei era una ragazza che studiava e ha dovuto lasciare tutto. Cioè, tu nel momento in cui sei scelta perdi tutta la tua dignità di donna e sei semplicemente una macchina per fare figli. E come ha fatto poi ad andarsene? Lei dice che lei ha lottato come una pazza per sei mesi per cercare di non andare proprio, sì, nel palazzo. Poi invece è stata costretta, è stata lì 15 giorni, non voglio immaginare che cosa non le hanno fatto, perché lei ovviamente si rifiutava, dice che si è rifiutata anche di firmare il contratto di matrimonio. Ed è corrotto, diciamo, le guardie. È una storia pazzesca, una storia veramente incredibile. Sì, una notte che, diciamo, il marito stava, non so, da qualche altra moglie, lei è riuscita a scappare di notte e ha camminato fino alla casa della mamma, dove è arrivata tipo alle 4 di mattina, la mamma l'ha nascosta, l'ha fatta poi passare sul Sudafrica e poi da lì attraverso un'organizzazione. Perché a quel punto non poteva più rimanere lì, perché poteva essere a rischio, forse addirittura di essere ripresa, a rischio della vita. Sì, addirittura le guardie che l'hanno fatta, diciamo, scappare sono state licenziate. Quindi, voglio dire. Quindi adesso le tocca accogliere anche le guardie. No, ma... perché questo sarebbe veramente incredibile. Vabbè. Sarebbe la chiusura perfetta del cerchio. Esatto. Stefania, qual è il momento? C'è un momento difficile nella giornata, nella convivenza, o al contrario il momento più bello? Guardi, per me, siccome lei addirittura mi chiama mami, quindi io sento una fortissima responsabilità, anche perché questa povera ragazza nel frattempo gli è morta la mamma mentre lei era qui, e quindi si è sentita proprio spersa, c'ha 25 anni, non c'ha veramente nessuno, sì, c'ha una nonna che ogni tanto sente, diciamo. Quindi ogni volta che ti chiama, però, in questo modo, per te è un momento, il momento più bello, sì, della giornata forse. Sì, assolutamente, devo dire che appunto io me la sento veramente come una figlia, per cui diciamo ho un po' di ansia e di angoscia che insomma riesca a fare qualcosa per lei, perché lei comunque in qualche modo deve svoltare nella vita. Adesso sì, bisogna, dall'accoglienza fortuna, poi si passa anche alla necessità di integrazione, lì cominciano forse le difficoltà, i problemi, bisogna studiare, trovare un lavoro, esatto, eccetera, però no, eccetera. Guardi, siamo stati molto fortunati, sì, perché lei quando è arrivata a casa nostra mi aveva chiesto che voleva continuare a studiare. Allora abbiamo fatto un'application, siccome lei è madrelingua inglese e voleva diciamo fare communication, quindi comunicazione, diciamo scienze della comunicazione, però lei capisce, non è madrelingua italiana, è difficile fare scienze della comunicazione all'università italiana, per cui abbiamo fatto un'application all'università americana, l'American University of Rome, e devo dire che siamo stati fortunatissimi, perché questa università costa $17,000 all'anno e io non potevo sostenere questa spesa, però diciamo ho parlato con loro, ho fatto una serie di lettere, sì, di reteri, insomma una cosa e l'altra, alla fine praticamente si sono talmente diciamo immedesimati nella sua situazione, sì, che praticamente gli hanno dato gratis per 4 anni questa... l'università. Meno male, anche perché vabbè, accogliere un profugo, però poi pagargli anche $17,000 di università, bisogna essere veramente, però cioè, posso dire che complimenti, capisco, capisco che venga chiamata mami, la chiamerei mami anch'io, perché mi sembra che lei non si occupa semplicemente dell'accoglienza, non è che semplicemente ha dato un letto a questa ragazza, ma si sta occupando come se fosse una figlia. Io però vorrei risentire un attimo Fabiana Musicco prima di salutarvi e di rinnovare l'appuntamento col Festival della Partecipazione dell'Aquila, per fare una domanda a Fabiana, perché qua stiamo parlando comunque di persone che hanno diritto a uno status di protezione, proprio perché abbiamo sentito la storia di questa ragazza incredibile, lei è scappata, ha rischiato anche la sua vita, ma quanti sono sul totale dei migranti? Perché si sentono dire molte percentuali, non si sa bene, le persone che poi hanno veramente il diritto di protezione, di avere lo status diciamo di rifugiati, i veri e propri rifugiati, esatto. Ma ovviamente diciamo noi sentiamo sempre i numeri di tutti coloro che arrivano in questo momento e sappiamo che il loro arrivo e la loro richiesta di asilo poi deve essere esaminata da una commissione appunto per il diritto di asilo, e in questo momento le commissioni stanno cercando anche di accelerare il loro lavoro, ma parliamo comunque di decine di migliaia di persone che ottengono questo diritto a restare con una forma di protezione che o è l'asilo politico o una protezione umanitaria o sussidiaria, quindi sono varie forme di protezione internazionale. La cosa che è importante sempre sottolineare, perché a noi non piace molto parlare di numeri, però è importante anche farlo, perché parliamo di percentuali risibili sulla popolazione italiana, parliamo di percentuali bassissime, non siamo un paese che ha un'emergenza, non siamo un paese che ha una incidenza troppo alta, un'incidenza troppo alta ce l'ha il Libano, ce l'ha l'Uganda, cioè sono arrivati in Uganda 900.000 persone, 900.000 rifugiati, quindi anche su questo tema dei numeri io invito molto la stampa sempre a raccontare il numero, raccontandolo in maniera coerente e realistica rispetto a quello che è il nostro paese, rispetto ai nostri tassi demografici, rispetto ai luoghi che si spopolano, rispetto al fatto che arrivano persone che, ripeto, non hanno scelto di venire qui, ma che soprattutto sono in un'età anche giovane, sono persone che possono, se li aiutiamo a trovare una strada, se quindi pensiamo a un'accoglienza che abbia un significato e che sia coerente rispetto alla stessa parola accogliere. E noi su questo siamo pronti, lo diciamo da tempo e stiamo provando a farlo, a ragionare col governo, col Ministero dell'Interno che ha la governance sul fenomeno, con le regioni, con i comuni, e quindi noi dal dicembre 2015 che giriamo tutta l'Italia, non soltanto queste occasioni bellissime come il Festival della Partecipazione dove io sono e dove tra poco condurrò questo workshop, ma noi ci stiamo rivolgendo alle istituzioni affinché l'accoglienza in famiglia e l'accoglienza diffusa vengano messe a sistema e possano crescere rispetto a questa che è una buona storia, a nostro parere una storia bellissima, ma è una storia che ovviamente col solo volontariato e con l'attivismo noi sentiamo sinceramente di aver fatto quasi un miracolo, lo dico senza falsa modestia, però veramente i numeri sono dei numeri sostenibili per il nostro paese, purché ci sia una visione, un pensiero, un cambiamento culturale che noi invochiamo innanzitutto in chi ha la governance del fenomeno e poi nella popolazione. Noi vi ringraziamo, Fabiana Musicco di Refugees Welcome Italia, ma anche Stefania Pozzi, una delle persone che sta ospitando concretamente un rifugiato. Grazie dal Festival della Partecipazione dell'Aquila. Vi ricordo anche che c'è pure Radio 24 con una presenza, insomma c'è un evento oggi alle 17.30, vi do l'appuntamento al Cortile Palazzo Ciolina con Amare giocare e partecipare, a un evento live con Federico Taddia. Vedi come va il mondo, noi qui al chiuso a sgobbare, Federico all'aria aperta a giocare, amare e partecipare. È andata meglio a lui questa volta. 800 24 00 24, torniamo tra pochissimo anche con gli ascoltatori e poi con Crowd Me Up. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora andiamo con chi? Ah, intanto devo dire che al 342-238-6666, caro ascoltatore che ci stai mandando, credo siamo ormai a quota 150 volte lo stesso messaggio, è un appuntamento per genitori che tu definisci responsabili e civili per una manifestazione, credo, contro i vaccini. Non è che se ce lo mandi 40 o 50 volte il messaggio diventa più chiaro e diciamo questo appuntamento. Non è che siamo Radio Proloco che ogni appuntamento facciamo la pubblicità. No. Soprattutto le diamo un consiglio: abbiamo WhatsApp e WhatsApp non si paga, mentre gli SMS a seconda del piano tariffario o qualcosa. Ah già, avrà speso 30-40 euro stamattina. Ormai gli SMS costano molto meno. Un centinaio. Vabbè, ancora un altro, ce l'ha mandato subito, giusto per non smentirsi. Ma magari è un errore del suo telefono. C'è un'app che sta gestendo tutto questo. Volevamo avvisarla. Allora, andiamo con Silvia che chiama da Roma. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno. Prego. Io volevo un attimo condividere una mia esperienza che ho fatto in vari paesi dell'Africa. Sì. E è vero che ovviamente c'è un grande problema di povertà, però non si parla mai della responsabilità dei leader africani, perché un fiume di soldi sono stati inviati per vari progetti nella cooperazione allo sviluppo e molti di questi hanno utilizzato questi soldi non per aiutare le loro popolazioni, ma addirittura per distruggerle. Basta vedere quello che è successo in Zimbabwe. Sì, non basta stanziare dei fondi a dire abbiamo aiutato la cooperazione allo sviluppo. Il colonialismo sicuramente ha le sue colpe, però secondo me questa idea del terzo mondismo, che ora siccome l'Occidente ha sbagliato adesso deve pagare, secondo me la gestione dell'immigrazione è fatta malissimo. C'è sicuramente un problema enorme di traffico di esseri umani e io questa cosa non la vedo combattere in maniera così significativa. È un business colossale. E che si fa contro questi trafficanti? Purtroppo è vero, Silvia, purtroppo è vero. Resta con noi se vuoi, perché tra poco chiediamo anche agli ascoltatori di aiutarci a fare da giurati per i progetti, di essere la nostra giuria, la giuria popolare per i progetti di Crowd Me Up. Vincenzo da Salerno, benvenuto. Buongiorno. Vai. Allora, io sono d'accordo, ma non un poco, al mille per mille con chi ha parlato poco prima di me. Sì. Ma per un motivo semplice. Le faccio un esempio proprio, come diciamo noi qua, terra terra. Se mio padre ha commesso una strage, non è detto che sono uno stragista pure io. Se vogliamo parlare sempre del passato, del colonialismo e quant'altro, andiamo a vedere quanti soldi mandiamo noi in Africa. E vediamo che uso ne fanno. Allora, se questi hanno l'intenzione sempre di tenere il popolino, diciamo, non allo stesso modo, sta ben chiaro. È un po' come ci stanno trattando i nostri politici di adesso. Là lo fanno più cruento. Cioè, lei non crede neanche nel aiutiamoli a casa loro, perché dice tanto diamo dei soldi che poi vengono spesi male. Può succedere, è sicuramente successo in passato. Può succedere, succede. Ancora oggi succede. Beh, certo che succede, nel senso che come succede a noi che ci sono i politici che rubano i soldi, ci saranno anche dei politici che rubano i soldi nei paesi africani, questo stiamo dicendo? E non solo questo, ma c'è anche il fatto che

Allora, qua stiamo sul filone dei sospesi, perché c'è il caffè sospeso a Napoli, ne abbiamo raccontato tante volte, poi c'era stato il giocattolo sospeso. Ne abbiamo parlato Natale, anche di quello. Sempre a Napoli, poi c'era stato il panino sospeso, se non ricordo male, a Pavia. Insomma, hanno sospeso tutto, è tutto sospeso. Il teatro sospeso, gli amici bellissimo. Di Pergine a Trento, li salutiamo, è vero, grandissimi. È vero. Adesso arriva il gelato sospeso. Oh, arriva l'estate, arriva il gelato sospeso. Grazie, all'associazione Salva Mamme, con noi Katia Pacelli, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Allora Katia, raccontaci come voi dell'associazione Salva Mamme, che siete a Roma, però credo che state cercando di farlo un po' in tutta Italia, questa cosa del gelato sospeso. Come lo sospendete? Come lo sospendiamo? Chiediamo di sospenderlo in giusto, realtà. Giusto, giusto. Nel senso che noi sì, in realtà è il terzo anno di edizione appunto del gelato sospeso, che è un'idea nata con l'intento di strappare poi un sorriso ai bambini che poi vivono in famiglie in condizioni di disagio socio-economico, per cui anche obiettivamente il costo di un cono può fare la differenza sul menage familiare, e di conseguenza abbiamo pensato che a un bambino d'estate non si può acquistare un gelato, e quindi abbiamo fondamentalmente voluto sensibilizzare la città di Roma, ma abbiamo allargato naturalmente la campagna a tutto il territorio nazionale in modo ma tale come da si riconoscono le gelaterie? C'è un bollino? C'è qualcosa? Le gelaterie che aderiscono scaricano dal sito del gelato appunto sospeso una locandina e mettono un bussolotto dove chi vuole donare appunto questo gelato lascia lì i soldi, e poi quando i bambini, con chiaramente accompagnati dalle famiglie, vanno a richiedere il gelato. Era lì che volevo, chiaramente accompagnati dalle famiglie, perché io invece speravo che i bambini potessero andare da soli. Allora mi immaginavo queste code interminabili di bambini che dicevano: io non posso permettermelo, voglio un gelato. Beh, noi facciamo sempre, qualsiasi distribuzione per il salvamamme alimentare, facciamo sempre in modo che ci siano i genitori, perché ci sono casi di intolleranze, allergie, e quindi chiaramente deve essere dato con un adulto che si prende la responsabilità. Fate delle cose bellissime voi di salvamamme, purtroppo siamo in chiusura. Complimenti Katia, ma insomma dobbiamo sentirci di nuovo, sarebbe bello sentire come è andata a finire. Salvamamme. Sì, domani però non siamo in diretta sabato prossimo, abbiamo già detto. Noi ringraziamo Andrea Piana, Claudio Schiattone, Cristian Goldoni oggi era con noi, Andrea Roccabella in regia. Ci sentiamo appunto sabato prossimo. Ciao da Alessio Maurizi e ciao da Carlo Gabardini.